Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Velocissima nel mettere in pratica gli insegnamenti, ma elefantiaca quando si tratta di imparare. È l'intelligenza artificiale, o meglio il deep learning, cioè l'algoritmo di intelligenza artificiale basato sulle reti neurali artificiali, che però è alla base di gran parte dell'attuale successo delle tecniche di IA. Le reti neurali infatti non si programmano, ma si addestrano. Una volta completato l'addestramento, una rete neurale è estremamente performante e può essere replicata indefinitamente. Nella fase di addestramento invece le reti neurali sono a dir poco dure di comprendonio. Se a noi umani infatti bastano due o tre esempi e a volte anche uno solo per imparare a riconoscere un nuovo oggetto, per esempio un animale mai visto prima, le reti neurali hanno bisogno di elaborare centinaia di migliaia di esempi. E se è vero che gli esempi oggi non mancano, viviamo nell'era dei big data, resta il fatto che la potenza di calcolo richiesta per addestrare una nuova rete neurale è molto elevata e questo pone un problema di sostenibilità. Si calcola, per darvi un'idea, che addestrare una rete neurale complessa comporti un dispendio energetico pari al consumo di 5 automobili nel corso di tutta la loro vita utile. Ebbene, una tecnologia sviluppata recentemente al Politecnico di Milano, che permette una forte economia in generale in varie applicazioni di calcolo numerico, sembra offrire una soluzione. Ne parliamo con Daniele Ielmini, professore presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Buonasera, buonasera Ielmini. Buonasera. Allora, intanto ci dia un'idea del tipo di operazione che questo vostro circuito, perché di fatto questo è, svolge, e perché è importante per il mondo dell'intelligenza artificiale. L'operazione che noi riusciamo a svolgere nel nostro circuito è la regressione, che è una delle più frequenti operazioni di machine learning che viene eseguita dagli esperti di intelligenza artificiale. Per fare un esempio, supponiamo di avere una grande quantità di dati. La regressione lineare permette di descrivere tutti questi dati, ad esempio, non lo so, il prezzo di una casa in funzione del numero di locali della casa e della sua posizione, secondo una funzione lineare, quindi potrebbe essere una retta oppure un semplice piano, per descrivere questa grande quantità di dati. Il vantaggio è che in futuro sarà possibile stimare il prezzo di una nuova casa soltanto sulla base dei parametri della casa mappati sull'enormità dei dati disponibili nel dataset. È come trovare una legge semplice che descrive quei dati, diciamo così, una legge matematica molto semplice che poi si può applicare quando arrivano dati nuovi. Allora, veniamo al, diciamo, segreto, a come siete riusciti a risolvere il problema. Di fatto voi riuscite a fare questo calcolo di regressione lineare in una botta sola, con un colpo di clock del computer. Com'è possibile? Come funziona? Quali sono, come dire, gli ingredienti fondamentali? Il segreto è il calcolo in memoria, cioè il fatto che questo algoritmo di regressione è realizzato direttamente all'interno della memoria. Non dimentichiamo che i computer che abbiamo tutti noi nel nostro smartphone o a casa sono basati sull'architettura di von Neumann, dove c'è una separazione fisica tra il processore, cioè il cervello elettronico dove vengono eseguite le operazioni, e la memoria. Tutte le volte che io devo elaborare dei dati, per esempio fare quella regressione sui prezzi delle case, ad esempio, io ho bisogno di importare nel processore i dati e uno alla volta, tra l'altro. Uno alla volta, per eseguire tutte queste operazioni e poi eseguirle nel processore nel dominio digitale. Questo richiede un grosso dispendio energetico, perché molto del tempo che noi sperimentiamo per dover fare una certa elaborazione dei dati è in realtà sprecato per il trasferimento di tutti questi dati. Dalla memoria avanti e indietro. E com'è possibile che nel vostro caso non serva? Le diceva, memoria e calcolo sono fusi in uno stesso oggetto fondamentalmente. Esattamente, questo è il concetto che sta alla base del calcolo in memoria. L'elaborazione dei dati avviene direttamente all'interno della memoria, quindi non c'è nessuno spostamento di dati, ma semplicemente noi usiamo l'elemento di memoria per immagazzinare un certo dato, come ad esempio il prezzo della casa di cui si parlava prima, e lo usiamo come elemento di calcolo, potrebbe addirittura diventare per esempio il fattore di una moltiplicazione che viene eseguita nel dominio analogico all'interno della memoria. Ecco perché il trucco, se così possiamo chiamarlo, è che voi eseguite questi calcoli nel mondo analogico e non nel mondo digitale, anche se sembra un po' una contraddizione in termini, funziona. Funziona e anzi è appunto il trucco, il segreto alla base dell'efficienza energetica del nostro circuito di calcolo, al tempo stesso è una sorta di inefficienza dal punto di vista dell'integrarsi nell'architettura digitale inevitabilmente di ogni, certo, ogni computer digitale, quindi noi dovremo far conto della presenza di notevoli numerosi convertitori analogico digitali per interfacciare il nostro circuito con il resto del mondo digitale. Senta, realisticamente quanto si potrebbe risparmiare dal punto di vista energetico sposando questa tecnologia? Beh, abbiamo fatto una semplice stima, nel caso del training di una rete neurale noi stiamo che la nostra efficienza energetica sia 20 volte meglio del Tensor Processing Unit di Google, che è uno dei processori più avanzati al momento per applicazioni di intelligenza artificiale. A che punto siete rispetto, diciamo, alla possibilità di applicare concretamente, industrialmente questa tecnologia? Sì, finora noi ci siamo mossi nell'ambito del laboratorio universitario, al momento dobbiamo però per convincere e convincerci dell'applicabilità industriale del nostro circuito realizzare il cosiddetto proof of concept, cioè la realizzazione pratica di un dimostratore con un'integrazione in un chip di silicio che verrà offerto da una ditta di semiconduttori per dimostrare praticamente l'applicabilità del nostro concetto anche a livello di prodotto e a livello di applicazioni come quelle che abbiamo citato. Va bene, allora grazie Daniele Ielmini e avanti così. Grazie a voi, arrivederci. Cari ascoltatori, è tutto, appuntamento domani.